Signorina, se permette, l'accompagno a passeggiare oppure al bar o al cinema. E se piove cosa importa se mi bagno? A lei vicin il cuoricin si scalderà. Sarei così contento di dirle quello che ho nel cuore, un dolce turbamento che tanto sospirar mi fa. Signorina, se permette, l'accompagno a passeggiare oppure al bar o al cinema. Prego, accetti, qua o là, fa lo stesso in verità, ma mi creda, signorina, preferisco il cinema. Contento di dirle quello che ho nel cuore, un dolce turbamento che tanto sospirar mi fa. Signorina, se permette, l'accompagno a passeggiare oppure al bar o al cinema. Prego, accetti, qua o là, fa lo stesso in verità, ma mi creda, signorina, preferisco il cinema.